Avanti su 10, chi è? Sono io, Gianfa, sto facendo la prova. Stavo innescando il microfono. Mi sembri un po' barattolato. Mi dà questa impressione all'inizio, ma non che non ti stai svegliando adesso. No, è barattolato, non mi sto svegliando adesso. È barattolato. Non lo saccio. Non so, vabbè. Stiamo aumentando così. Aumentando così, barattolato ancora. Mi sembra di sì, è un po' strano, è un radio è forte. Però non so se sia anche da me. No, era te che sono in cuffie, è per quello che stavo facendo questa prova. Ho fatto a togliere quella spugnetta, ma è ancora peggio. Ti aumenta un po' il coso lì, la sensibilità, l'amplificazione, però poi dipende da voce a voce anche. La vuoto, quindi. Come la vuoto? No, c'è la spugnetta intorno alla capsula e anche nella retina, c'è. È nuovo. Ma che microfono è questo? Adoni. Adoni, sono vuoto. 5, insomma, hai capito, no? Con la serie là. Avevo capito, era vuoto, non la vuoto. Quello lì sì, avevo capito, era vuoto. No, c'è la spugna, c'è. Hai visto il microfono? È un normale microfono a condensatore. Sarà un microfono a condensatore, non si duca nulla. Se non si duca nulla, dal fatto che non mi piace la modulazione. Non so. Ma che io ricordi anche prima lo usavi e non era così, andava bene. Non so. La radio, questo è 430, se metto 60 è da paura. Devo dire, non so già io. Si aumenta di più, picchia, vedi? La radio è buona. Cavolo, è molto buona, sento sul fondo, neanche proprio sul fondo qualcuno sta parlando, deve essere tua moglie, cioè amplificazione già ce n'è, ma la solita. Guarda che sposto la levetta Gianfranco, così è in SSD, e così è in FM, BOM, come va meglio? Ma per me sembra che identico. Anche per me. Vabbè. Non so che dirti. Vabbè. Per il momento lo lasciamo così, poi vediamo un po' cosa succede. Togliere la spugnetta, a vedere qua e tolgo quella della, non quella della retina, l'altra, quella che è intorno alla capsula. Ma no, quella che è intorno alla capsula serve più che altro per rendere il microfono più stabile all'interno, per non vibrare. Quella della retina io le ho tolte perché non mi dava tutta questa amplificazione, ma non credo. Tanto è vero che io li tengo al massimo. E poi, non lo so, l'apparecchio non c'ha delle regolazioni di tono, eccetera, è troppo vecchio per... L'apparecchio tono, questo 430 c'è una KF, la regolazione del tono c'è. E quelli da adesso, puoi regolare la voce anche come tonalità, alti e bassi. È equalizzata mia, anche il TS2000 credo che ce l'abbia. Sì, vabbè, ma stai parlando del TS2000, però questo è uscito negli anni 80 alla radio, siamo nel 2021 oggi ancora. Quindi non c'è diavoli, non ci puoi fare niente di che. No, non so cosa dirti veramente, anche perché quell'apparato non ho mai avuto, quindi forse andrà meglio con un microfono di quelli soliti, che e compagnia cantante, forse. Vabbè, vai al canale 20, vabbè, anche così faccio qualche prova, le sto togliendo, la spugnetta, mi puoi ascoltare meglio. Esecutivo. Senti questa cosa e poi mi dici se te la ricordi. Sentito? No, ho detto di sentire questo sketch, se mi sai dire se te lo ricordi. No, aspetta che no. Che no, stavo andando. Accidenti, io. Cos'è? No, aspetta, ogni tanto c'è un po' la gola messa male. Adesso te lo mando. Ora fatto. È entrato adesso uno. Benvenuti a sti bracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei? E dimmi un po' che c'hai da di. Continua a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare, fai dire niente, ragazzi. Sì, questo è il mio banco, il commissario Logatto. La belva umana è tremendo. Io riguardo tutti i film, no? Ma a 34 non erano parecchi, c'era poco, non sono proprio. Io non mi hanno detto anche lui di età, molto grande, anche lui città. E niente, facciamo delle scene veramente micidiali, notevoli. Quello già era bello, me lo ricordo. Grande film, beh non era. Ok. Non mi ricordo, non mi viene il nome del ristorante, che esiste davvero tra l'altro. Dove avevano girato quel film? Sì, esiste, anche io non me lo ricordo. siciliano era. Rosaccio, Rosaccio, e cosa vuoi avvirti? Ok, era il come si chiamava? Non me lo ricordo, però è un ristorante che già esiste. Credo che sia un ristorante di civili, una cosa del genere. In Roma, come quello ristorante Tozzone, non Tozzone, non se mi ricordo. Sì, una cosa del genere. Troppo ridere. Tutti in ritardo sono stasera, come mai? Non ci sta nessuno, con questo freddo, bello fare la radio, si riscalda i piedi. Beh sì, sono tutti al calduccio. Poi adesso più andiamo avanti e più scende, io ho chiuso tutto perché c'erano già le stelle, la luna. E anche io sportello negli uffici, c'è solo quelli di facciata aperti. Porta d'ingresso, il portellone è ancora aperto, lo chiudo quando andiamo a letto. Gappa gappa. Vabbè. Linea di massima. Andiamo a tenerlo così questo microfono, in attesa di trovare qualcosa di meglio. Sì, da Sergio e Bruno, ristorante di incivili. E a Roma quello è. Sì, esatto. Mi ci alleva. Aspetta. Ma così, abbia, ma come si permette? Ma che fa? Reagisce? Ma scusi, la chiamata. Insomma, e mi piace moltissimo. Vede, il bello di questo locale che trattano male tutti i clienti. È qui che sta il divertimento. Buonasera, signore. Ma vaffanculo. Ha sentito che rapporto? Invece del minero. Micidiale, no? Oh, Gianfranco, io mi siamo andati con la buona lettore mia alla provaccia a Roma. Non sono riuscito a mangiare, Gianfranco, non sono riuscito a mangiare. La buona lettore non l'ho mai visto ridere in quella maniera. Allucinante, non riesci a mangiare. E cosa ti servono, parolacce? Perché esiste il saluto lì. Cisciuga, non è risata. Non lo posso dire qua veramente, ma di tutti i colori ce ne hanno letto. Proprio trattati ma male, ma di più. Già solo quando ti dà il menù, ti dice vedi, fai fretta, se no te lo metto nel culo il menù, capito? Ma a me lo si mangia bene. Ehi, bene, bene. Di più, se non passa dai fettuccini, va come maestro. E gli si mette il cinema vero qua. Praticamente eravamo andati alla fiera a Milano e poi sai com'è lui, no? Come facciamo sotto a Roma? A Farosa. A mangiare pure io, prendiamo lì. Allora, siamo andati a Roma. E mi ha portato lui lì perché era già andato con coso, con un diame di Roma Sole, lui lì mi ha detto, a mangiare. Sì, sì, andavano, stavamo molto spesso insieme, sono a vita nuova da Gianni, il cugino, mamma mia, quante ne ha combinate, a me mi faceva morire quell'uomo, guarda, mi faceva morire. Veramente già fra quando siamo passati a essere vero, prima avevamo fatto la richiesta di cambiare un attivo tutto, e dove è entrato, noi c'era l'altra, grazie, non c'aveva. Io sono zero, un cugino. Sì, un cugino. Ecco qua. Boh. Aspetta il culo c'è questo, eh. Cambiamo un attimo le relazioni alla sigla uguale, già. Veramente ho detto, ciao, ma come hai fatto? Ti hanno dato... Hai fatto il cambio un attimo e ti hanno dato la sigla uguale. Mi si cannoggiami. Ha fatto il cambio un attimo e mi chiamano lasciato URT. Oh, ho fatto niente, io no. Se tu... Se io sei zero perché non devo essere zero anche io, questo va. Tremenda, era tremenda. No, poi mi ricordo quando stavamo provando il digitale, che gli ha detto, ma cos'è questa cosa? io non sento niente, vi denuncio a tutti, abbiamo commutato, ma scusa, ma non c'è i soldi per comprarti la radio? E lui, ma io devo sentire tutto. Sì, sono quello, sì, già me lo ricordo io. Ma tu senti, Pagliero, senti? Io già sento, che già ce l'ho il... Tu cosa senti? Un rumore, così ha fatto. E tu dite, ragazzi, per carità, è sempre con quel portatile. Sempre con quel portatile. Tu, se non vedi, giro, che sto facendo poco, non so perché. Così mi ha detto il figlio. Ma... se tu lo vedevi, il via Pascolo che andava tantissimo dal povero Formice, dal signor Mario, lui c'era sempre il portatino attaccato alla cinghia del pantalone. Capito? Mi pareva la pistola. No, questo mi serve per fare due fiacche, carissimo, quando sto camminando, e sta attento a pulire un baro. Ma lo usava per parlare pure con i colleghi lì, che stavano lavorando. Micidiale era, però anche lui, cioè adesso penso che abbia una bella età, almeno un 75 ce li ha buoni. Beh, penso di sì, pare che era più grande, era che faccio, non mi ricordo, non so se era quanto ettore, o se ettore era più grande, boh, non me lo ricordo, lo sai, devo guardare il ricordino di ettore di camera perché non me lo ricordo, forse ettore era del 32, no? Beh, Tore, quando è andato, penso ci avesse già 70 anni buoni, quindi adesso ne avrebbe, adesso sarebbe quasi oltre gli 80, se non pure intorno ai 90, perché quanti anni sono passati? Abbiamo preso nel 93 la patente, anzi nel 92. Fatelo pronto, quanti anni siamo passati? Piano piano, anche noi stiamo diventando vicini, vai, poi quanti anni, neanche a corti ce ne siamo, adesso inizia la discesa, perché inizia a correre, i giorni passano in fretta e ti ritrovi ottantenne, speriamo. Preccolo. Mastro. Roberto, lo so, in fretta cammina il tempo. Ciao Roberto, buonasera, avanti. Ciao Claudio e ciao Gianfranco, non so se ci sia qualche altro, ditemi voi. No, siamo soli soliti, Roberto. Auguri e benvenuto, signore IS0. Sì, quando mi daranno il nominativo ne parleremo, per il momento non sono niente ancora, dai. Ok, grazie comunque. Non sei niente, ma ti piace il nominativo? Mattore sì, se sei stato promosso, come sempre. Radio Mattore sì, quindi benvenuto nella banda dei pazzi, della Radio Mattore e non dei CB. Poi quando ti hanno nominativo lo userai la radio. Per il momento Radio Mattore sì. E allora, cosa hai combinato? Ieri non ti sei fatto sentire. Sei andato a festeggiare. No, sono andato a accompagnare mia figlia per fare una visita, poi sono sceso giù agli punti con la squadra, volevo entrare ma era tardi, ho detto non vedo nessuno, ho acceso un secondino ma quando sono rientrato ma era già tardi, erano le 10 meno qualcosa, infatti ho detto no, avrei voluto salutare perché mi hanno mandato una marea di auguri, di saluti, di Radio Mattore, di tutto e di più. Beh, la nostra famiglia lo sai che è una famiglia per bene, c'è anche stanotte il film, guarda, era sul primo. Una famiglia per bene, vero no? Sì, ma io la notizia l'ho ascoltata al telegiornale, era in prima serata, proprio non è entrato tutte le trasmissioni, le trasmissioni straordinarie. E cosa ti volevo dire, Robè, adesso dovrai fare un po' di carte, cartoline, cartacce e aspettare, ma penso che l'abbia già fatto, cioè prima dovrei aspettare la patente di guida e poi inizia a fare tutto. Ecco cosa ti volevo dire, ti devi cercare un padrino. Claudio, fatti avanti, ti accompagna? Sì, io sono già il padrino, non c'è problema, sono io che ho divulgato la notizia, quindi adesso aspettiamo un attimo, poi il primo collega pagamento, facciamolo, facciamo assieme. Aspetta, mi sta scusando il telefono, prendi roba. Ehi, allora, il primo che ha saputo la notizia è, quindi è padrino di telefono, poi di radio lo dobbiamo vedere, è stato Claudio. Quando ero il primo padrino di CB è stato Luca Del Monte, è stato lui che mi ha ascoltato, e Claudio è stato il primo che ha saputo la notizia, poi credo che l'abbia detto a tutti, poi l'ha saputo Fabrizio, Marco Scorpion, e poi da lì poi hanno falso la voce, e infatti mi hanno mandato un sacco di messaggi, anche gente che non conosco tra l'altro. Addirittura. Quindi no, non lo sapeva nessuno, ovvero. È stato detto, l'ha dato al telegiornale in direzione straordinaria. Ma ha chiamato anche Riccardino ieri e mi ha detto, te ricordi Riccardino? Sì, ma che fine ha fatto questo ragazzo? Ma ieri probabilmente stavo ascoltando, perché poi mi ha mandato, non potevo rispondere perché ero col muto, silenzioso nel cellulare, ho visto la sua telefonata, ha detto chiamami, appena l'ho chiamato, non sapevo cosa voleva, mi ha detto grazie, complimenti per il coso, auguri per la patente, eccetera eccetera, dice stavo ascoltando, il padre ho sentito quando è avanti ieri, mi ha detto che non è che stava tanto andando benissimo a scuola, però ha preso un 5, ha detto già si risolve, ha detto di là entra, sì già rientra, poi magari già lo chiamo io uno di questi giorni e gli dico affacciarsi di nuovo alla radio, dai. Ho capito. Ascoltami, ma è perché chi è il tuo padrino? Non si compreso. Chi è il primo che l'ha saputo? Ce l'avamo in diretta noi. E non ho detto che sei tu mio padrino, cacchio. Padrino di coso? Di OM stiamo parlando. Ah, eravamo in diretta. Quindi, è così. Vabbè. Il padrino ufficiale diventa quando siamo nominativo. Passiamo in VHF a 5.25 e ti battezzo. Bene, va. Ehi, a me ha fatto, lo sai, quando ti fai il battesimo, anzi quando fai la cresima ti regala un orologio il padrino. Mio padrino Claudio mi ha già dato un regalo, mi deve dare un regalo, lo so se mi regala, e già fa. No, dimmi cosa ti dà. Fatelo dire a lui, dice, se ti promuovono, dilli. Ma certo che sì, non c'è già l'impianto, adesso è pronto, capito? Soprattutto la 5 elementi, perché ha proprio doppio per i 6 metri, almeno se ricordo questi 6 metri, visto che io non me li sono mai voluti. Ho montato un'antenna che non ho mai fatto un collegamento, non avrei mai fatto di propagazione. Sino all'ultimo giorno veniva tolta. Sì, me l'avevi detto. Dovreste avere anche lo spazio, no? Per mettere, non dico di mettere cose esagerate perché tanto si ferrafa non ne vale neanche la pena, però il minimo sindacale giusto per farti sentire. Ma parli di radio o di antenna? Non ho capito. Se ti riferisci alle radio o alle antenne? No, alle antenne, le antenne sono la cosa più importante come al solito. La tenna qualcosina ce l'ho, poi Claudio mi deve dare una mano, mi ha dato lui delle dritte, per la bimbanda ce l'ho, devo cambiare posizione, per le VLU ce l'ho piccolina, ma dice Claudio che già va più che bene, l'ho usata più che altro solo in ascolto, poi c'è un dipolo che me lo deve dare, lo dobbiamo svolgere, e poi questa famosa direttiva per i 6 metri. Ecco, la cosa più importante secondo me è il dipolo, perché nei 6 metri non è che ci sia grandi cose, tutto lì, e niente, quindi chissà che si dia anche lì un pochettino più di vita, ecco, se ci fosse il traffico che c'è qua sarebbe già una bella cosa, perché sai, sono tutti in macchina a volte, veloci, 2 minuti, ciao, tutto bene, pum. Qua a me non si fa ogni tanto una chiacchieratina, dai. Sì, assolutamente. Claudio, che avanti? Auguri Roberto. E chi è? E chi è? Natalino sono. E perché c'è questa voce strana? Il microfono è cambiato. Ehi, c'ho l'MB più 4, è questo. No, ti sentivo diverso. Cioè, per un momento è Natalino, ho pensato, però ho detto, ma sarà questa roba. Grazie Natali, dai, è andata bene. Non era semplice, perché le domande, ti posso dire, non erano semplici semplici. Ehi, lo so, io non ci ho manco tentato, non perché non sappia, è perché a me intanto non me ne danno, dai. E cosa sei, delinquente, cosa hai combinato? Ehi, per loro sì. Per quel cacchio, ma perché sono venuti a controllare, ma non c'entra niente, però devi fare delle cose gravi, deve esserci la reclusione oltre 3 anni. Ma a me non me ne danno, sono andato 3 volte e ne sapevo più dell'ingegnere, capito? Però a me non me ne danno, io lo so già, e per quello non ci vado più, infatti. Boh, secondo me sono tutte tue fantasie. Natalia, no, fottidina, anche perché lo potresti dare in 3.000 parti d'Italia, no? Lo so, ma non tanto, per il traffico che c'è da quelle parti, no? Poi mi sono disgustato, già sono disgustato anche di qua, figurati. E cosa vuoi che ti dica? Riprendi Claudio. Se non avete chiamato, insomma, un attimo, c'è un po' uomane. Ma quel pedivella di Claudio c'è per caso? Tanti auguri a te, tanti auguri Roberto, tanti auguri a te. Cazzo, auguri gli auguri cantati, questa non l'avevo vista, grazie. Buonasera. Coccomane, Gianni Coccomane. Bravo, la che cantata. Bravo Gianni, bravo, così come sei. Io non ci riesco a cantare. Avanti, andiamo a fare prima. Quindi prepara una torta, Robert. Sì, facciamo una torta gigante. Non so se posso il candelino, una direttiva che gira. Una gran play, li mettiamo in mezzo. Oh, Robert, vabbè, quel di Polo, poi quello grande, quello scrive già forte, quello me l'ha fatto Marco, quello scrive già forte in 40 metri, 40-20, 40-20-15. Scrive già forte, ma forte a zero, bravo, per un auto, ho messo bene, però possiamo già organizzarci, un sabato lo piazziamo, poi iniziamo a organizzare per quanto riguarda la 5-20, tanto è tutto in a sassa di mansarda, capito? Si va con la fondamenta, si porta via tutto quello che ci serve. Ehi, dimmi una cosa, mi ha chiamato anche Walter, è riuscito a avere il mio numero, non so più la mia data, perché forse l'aveva cambiato da quello, io ce l'avevo il suo, però non corrispondeva più, mi ha chiamato anche lui, mi sta dicendo del tipo dell'80 metri, tu, il tuo faceva anche l'80 metri, confermi qua. Come tendi a punire già i Zucca, tu non ti preoccupare, glielo vedo io quello che ti devo dare, non pensare anche a me sue. No, aspetta, lasciami finire, perché ho detto che tu ci avevi un'antenna, mi avevi detto me la davi, quel dipolo lì faceva anche le 80, la volevo accorciare, ho detto no, lascialo così, lo giri intorno, cioè gli fai tutto il giro del palazzo e lo funziona lo stesso, mi ha detto. L'ho piazzato io, ma che mi devo dire come devo piazzarlo, è chiaro che i bracci sono molto lunghi, quelli degli 80, quindi praticamente che cosa avevo fatto io, perché da una punta all'altra rimanevano troppo lunghe le punte dei bracci, allora gli ho fatto una zetta, ok, con due tiranti le prendi metà delle due punte, le fai una zetta e poi stringi, se questo è i bracci, sì, ma hai aggiunto quello degli 80, come mi aveva detto Marco, io gli ho fatto gli occhielli e l'avevo aggiunto a quello dei 40, 20 e 15, quindi è 15, 20, 40 e 80, è un quadribanda a quelli poco. Ma è 80 metri, c'è traffico o è meglio sui 40? Traffico, e da quest'ora sono tutti in 80 metri, mentre sono in 40. Dalle 6 in poi, dalle 7 in poi, sino a tarda notte, sono tutti in 80 metri, si trasferiscono tutti in 80, in 40 non c'è più nessuno, in 40 va bene di mattina e primo pomeriggio, poi vanno tutti in 80. No, va bene anche di pomeriggio, il fatto è che è intasatissima, quindi se non li cazzigheggi non ti fanno entrare tutto lì. E comunque io le facevo dei qualsiasi in 80 metri, c'è una bella graffetta 3678, 3680, sono tutti di Cagliari, della provincia di Cagliari, un bel gruppetto, la sera adesso se tu vai ci saranno già. Comunque poi ci organizziamo, vabbè, domani si è fatta la giornata, stamattina non ce l'ho fatta, Robè. Non ce l'ho fatta, sono uscito veloce tra due commissioni, ma sono rientrato a casa, anche perché sto facendo lavori e quindi necessitava la mia presenza, capito? Tutto qua. Comunque adesso organizziamo, le antenne sono pronte, Robè. Io quando dico una cosa te l'ho detto, e se ti prendevi la patente, le direttive te le regalavo io, quindi c'hai tutto pronto, non devi fare assolutamente niente. Anche la gabbia in ferro della Procista, in acciaio inossidabile, per mettere il rotore, il master, il cuscinetto di spinta, c'hai tutto pronto. Tutto pronto. La paga ti tocca. Qui il Roberto c'ha Manduri qua. No, quello assolutamente no. L'ho già la prima cosa che ho detto. Io sono nato CB e morirò CB. Poi, quella è una cosa in più. Già, è mio figlio, che non può abbandonare, io non gli ho mai abbandonato. No, assolutamente. Vabbè, no, era una battuta clara. E vabbè, hai raggiunto il tuo scopo, sono contento che ce l'abbia fatta. Sì, no, tieni presente che questa volta non ho studiato, lo facevo un po' così, il ripassamento, mi mettevo a fare un po' di domande, di quiz e cose del genere, senza troppo impegno, infatti non ho detto niente a nessuno, Claudio è uno dei pochissimi che lo sapeva, e non credo a nessun altro, forse a casa mia qualcuno sì, però di altra gente nessuno, di qua in frequenza forse nessuno lo sapeva a parte Claudio. E le altre volte che avevo studiato veramente purtroppo non è andata come doveva andare, comunque va bene lo stesso, però devo dire ci vuole anche oltre alla preparazione bisogna essere un po' fortunati per certe domande che ti fanno questi signori qua. Ma molto te ne hanno fatto domande. Allora teoricamente sono 5 domande di coso di elettronica e 3 domande di coso di normative, però se tu le rispondi 3 di elettronica, diciamo sei quasi passato e ti fanno una domanda di normativa. Io tutte quelle che mi hanno fatto, me ne hanno fatto 4 domande, le ho tutte e 4 risposte giuste, quella normativa pensavo neanche me la facessero, infatti era già passato, lo sapevo già e me l'hanno chiesta, ma era abbastanza semplice. Quella di coso non era molto semplice, quelle domande che mi hanno fatto, perché c'era il tipo, forse non è molto informato del CVD. Vabbè, non è facile, no? Se uno non studia non riesce, c'è poco da fare, andarci così senza studiare non conviene. Vabbè, non sei andato, l'hai fatto dal computer così. Ehi, al computer lo fa. Adesso è più comodo, non devi fare manco un viaggio alle nuvole. Sì, però è uguale identico perché ti interrogano, cioè non è che la domanda per dire con 3 risposte, ti devono chiedere la domanda, dice tipo la propagazione cosa e devi rispondere, questa cosa a cosa corrisponde, tac, non è che puoi dire 1, 2 o 3 domande se sei incerto, lì devi essere sicuro. Vabbè, certo, vabbè, ma uno che ha studiato acquista sicurezza, normale, no? Se le cose le sai non è nulla da temere, se non le sai è che c'è da temere. Ma lo sai cos'è Gian, gli argomenti sono troppo vasti, allora le normative o le sai o non le sai, ma quando si parla di elettronica è un argomento talmente vasto, è come tu parli di medicina, cioè una cosa se studi la cardiologia e poi ti chiedono il rene, per dire così è l'elettronica, ci sono argomenti troppo vasti e non è che tu puoi sapere tutto di quello, poi come ti impostano le domande è diverso, a me mi ha fatto una domanda su coso, sui MOSFET, su che tipo di coso, il transistor è preferibile utilizzare, la frequenza di risonanza in una testa lunga, una tenna, queste domande non ci sono cioè nei quiz ci sono, però nel libro non ci sono, devi studiare e capire la logica di certe domande. Gli ho detto poi della GC, stavo parlando dice quando c'è un ricevitore, quando c'è un segnale che cambia, c'è molto QSB, che tipo di filtro interviene nell'apparato, nel ricevitore, e gli ho detto la GC. E questo è rimasto così, cioè allora, me lo dica in italiano, ho detto controllo automatico di guadagno, non lo so bene manco è. vabbè, va. Sì, un po' come quando fai l'esame di teoria, la patente, che se ti capita la cartella quella giusta rispondi subito, ti capita quella difficile di futtile, e così è anche per chi ti interroga, è la stessa cosa. Vabbè, interessante Robè, raccontarla e che sei passato da bui, dell'unica FTD. Si conferma, si conferma, già va bene, ok. Natalino, pedivella, come è? Molta bicicletta. Io sono sicuro che anche Natalino si vuole rimbassare subito, perché le cose le sapeva, è andata male troppe volte e ha perso la fiducia. No, ma hanno rotto i coglioni le carogne, che è diverso. Claudio, ha risposto a senza normativa una carina, infatti se la fiducia aveva fatto a suo tempo i fatti suoi, forse ce l'avrebbe già avuta da tanti anni una carina patente. Infatti decisori garoni, decisori bassoni, sì. Dimmi, Roberto. Vero che il cartaceo non lo devi più tenere col buco, si fa, puoi farlo solo direttamente col computer. Come vuoi fare? Io il cartaceo l'ho sempre tenuto, perché poi sai qual è il problema? Io non avendo praticità, quando c'erano, ho partecipato a qualche contest, ma molto di raro, mi veniva male a stare a parlare e a segnare nel computer, no? Non sono la verità, la praticità che hanno altre persone. Allora cosa facevo? Me lo segnavo nel cartaceo, nel corpo, che tra l'altro è qui presente, me l'aveva regalato, fatto, costruito, fatto da lui, il signor Natalino Alfa 1, ce l'ho sempre, quello lì Natalino, ce l'ho sempre conservato, perché c'è la data di quando ho fatto il primo collegamento nel 1993, e quindi c'è sempre, non l'ho mai buttato, non l'avevo regalato Natalino, me l'aveva fatto lui, comunque io segnavo lì e poi con calma me li portavo al computer, capito? Okay, yeah. Non ti vieta di tenere il cartaceo, ognuno fa quello che le piace, poi te lo trasferisci, è chiaro, devi avere un cool book digitale. Vai Gianfra. Sì. No, io mi sono ricordato una domanda che dovevo da tempo fare a Claudio. Claudio, ce l'hai presente l'Irsu, che sotto c'è anche un bar, un po' più su ovviamente. L'Irsu è nella piazzetta dei Carbonazzi, sì. No, non è a Carbonazzi proprio, è giù dove c'è anche quella clinica lì per i denti e per altre cose, dermatologia e compagnia cantante. C'è anche il bar, quello che di Stefano, come il capito. Allora, tu stai parlando dell'Irsu dove ci sono gli alloggi, sto parlando degli uffici dell'Irsu, sono la piazzetta dei Carbonazzi, in via Carbonazzi, capito, sopra la Cobec, quelli sono gli uffici, dove invece ci sono gli alloggi, come si chiama, eccetera, lì sì, lì c'è il professor Lissia, esatto, sì, c'è il professor Lissia, sono altri ambulatori, sì, perché? Ecco, sopra quel palazzo c'è un radioamatore, proprio sopra quel palazzo, che non è da confondere con quello di via Napoli. Mi ricordi come si chiamava? Quello è il professor Atturi, il professor Mario Atturi. Alfa Yankee Zanzibar. Alfa Yankee Zanzibar. E Budizzi. Ah, ho capito. Ecco, non mi viene in mente. Un attimo, mi stanno chiamando, torno subito. Ehi, ehi, avanti Natali. Beh, ci abbiamo andato. Ce l'ho sempre quel cookbook. Sempre, perché sino a parecchi anni, poi avevo dismesso e avevo passato al PC, però ci sono tutti i primi collegamenti che avevo fatto da 1.0, quindi me lo sono conservato. Ehi, ce l'avevo anche io così preciso, me li facevo io. E ti dico, una volta sono andato a casa di un amico, non dico chi è, se l'aveva comprato, no? dalla Marcucci, era meglio Romeo, mi sono fatto da meglio io. E te credo. Non c'aveva niente, c'era un nominativo, data e ora del collegamento, il buco mio c'aveva anche lo spazio per scrivere il nome di chi avevo collegato, tutto, frequenza, eccetera. Avanti, doppio route. Ehi, ehi, un attimino là che mi cambio radio. Guarda, arrivi troppo potente, no? Mi cambio radio, che con le altre riesco a sentirti meglio, perché quando c'è la radio molto alta qua non sento bene. Ah, vibra, no, di Duca Dunbey, questa è una regolata Roberto, questa è la 12, 508 col 430, va bene, cambia radio, va. avanti Robert. Natale, lo stesso sta uscendo una bomba con quel microfono, cosa l'hai combinato Natale? Modificato? È quello nuovo in scatola, io gli ho fatto solo la prolunga per poter arrivare all'apparato, non gli ho fatto altro. C'ha la capsula normale, cosa vuoi che ti dica? Non ha niente, è quello che avevo in scatola. L'ho attaccata al Superstar, infatti se tu noti c'ho il bip del Superstar. No, sta uscendo veramente bene, bella potente la voce, il segnale è forte, c'è più di 9,20 qua, però la modulazione è bella, bella piena, non pare manco un baracchino. Ah boh, se vuoi accendo l'altro, ti faccio sentire l'altro. Con quello sì, arrivo forte, questo c'ha 4 watt. No, ti ascolto perfettamente. Vediamo, lasciamo un attimo il bianco se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti sul 10. Auguri Roberto. Grazie anche a te. Grazie, nel senso, sono contento, dai. Una bella storia, me la sono tentata, è andata bene, dai. Ho sentito prima, perché ieri ho dedicato poco tempo alla radio. Mese di patenti, anch'io questo mese ne ho preso una, quella aeroportuale, che non ce l'avevo. Sì, sono patenti nei specifici, mi immagino il discorso. Ok, avanti Claudio per i saluti a Carlo. Ciao Carlo, buonasera, ben ascoltato, cordialità, ben tratto. Quelli sì, quelli sono un po' più, quei patentini lì, aeroportuali sono, mamma mia, sono un sacco di cose un po' diverse. Vabbè. Comunque auguri anche a te allora Carlo, dai, molto bene, non so cosa dire, non so, vediamo se Gianni ha cambiato radio. Gianni? Cambiata, ciao Carlo, ben sentito, buonasera. Buonasera, buonasera anche a Natalino, ci siamo sentiti stamattina presto. Ciao Claudio, Carlo, e anch'io qualche duna di patente già ce l'ho. E tu non ce ne hai da vendere anche i patenti? Guarda, se faccio l'elenco di tutte le patenti che ho io, o diplomi, di cose, guai. Faccio un miliardo, pure l'ho attestato di HCCP per certi tipi di cose, per dire che non mi è venuta, però ho fatto corso di defibrillatore, patente nautica, patente di allenatori, patente di peritto, vabbè, la patente della macchina, e poi cosa c'ho, cacchio, altri cosi per i ragazzi, per gli allenatori. Per il chiaretto, vabbè, non si vero, sei geometro. No, non c'è per essere geometra, devi fare il corso, ho fatto il corso di peritto io, ho diverse cose su posso fare anche il tribunale io, il corso delle perizie per conto del tribunale. Bene, bene, ti ha pagato, perché non l'hai detto, l'hai chiamata te per fare la perizia della casa, vabbè che l'ha mandato la banca per fare la perizia per la valutazione, per la vendita. No, vabbè, io parlo perizie meccaniche, di carrozzeria, riparazione di carrozzerie, mi hanno messo anche elettronica e coso, come cazzo si chiama? Eurofficeria, vabbè, ufficeria, no, l'hanno messo come coso, come gruppo di coso, di materie c'è anche quella lì. 400 euro a perizia mi si prendono quelle che periziano le case, capito? Fanno la perizia per le case quando devi vendere la casa, 400 euro ha pagato quella che ha comprato, 400 euro a questa agenzia che poi l'ha mandata al Banco di Sardegna, ti ricordo avevo chiesto anche non mi ricordo. Ma diciamo c'è una tariffa fissa minima che non dipende dal valore dell'immobile, può essere per 100, 200, non lo so, e poi c'è in base al valore dell'immobile si fa una percentuale. 400 euro ha pagato quello che ha comprato, 400 euro, fatto l'attualità, se no non fa il beneficio, se non fai la perizia, se nei documenti ti hanno chiesto la perizia, la devi fare, se no non so, infatti, ci abbiamo per un bagaglio, sì. Avanti Giaffra. Io e Natalino invece ce li abbiamo, i diplomi ce li abbiamo per il primo soccorso, per l'HCCP l'ho fatto anch'io Robè, primo soccorso, BLSD, BLS, trauma, tutti quei corsi lì, tutti fatti. Guarda, quelli non li considerano, primo soccorso, responsabile di sicurezza, tutore aziendale, e poi cosa cacchio ho fatto? Dico, guarda, ce n'avrò di trapezzati e cose, una diecina minimo di tutte queste cose, perché si è obbligato a farle, poi mi ho fatto quello del defibrillatore l'anno scorso, due anni fa, e più l'HCCP, perché noi nell'attività nostra giù sportiva c'è un locale dove c'è una mescita, diciamo, di roba da bere e cose, cioè c'è un responsabile, deve fare il corso HCCP. L'ho fatto anch'io, il corso HCCP. Che dopo non lo metti mai in funzione le cose che dicono. Si dicono le cose, poi ti fanno caricare nel furgone che carichi a me, ci ti fanno caricare la mondezza, ui. Vabbè, la legge è molto restrittiva, forse una delle più restrittive in Europa, non credo che ce ne siano meglio di quelle. Almeno in Francia non è a quei livelli lì, però se devono applicare la legge devi rispettarla, poi. Che non le controllano, un altro discorso. Vai Carlo, tu invece hai preso un attestato, mi hai detto di che genere? Ho la patente aeroportuale per guidare dentro l'aria sterile. Ma guidare con le macchinette che ci sono dentro? No, noi facciamo sicurezza, quindi facciamo il controllo della perimetrale, per cui ci sono dei punti dove chiedi l'autorizzazione alla torre per l'attraversamento, capito? Ci sono limiti di velocità da rispettare. Tutta la segnaletica che c'è sul manto stradale, le luci, gli stop che sono diversi, le precedenze ai pedoni, insomma è un pochettino complicatina, però mi serviva e l'abbiamo presa in 10 un mese e mezzo fa. Ok, complimenti, dai. Vabbè, mi immaginavo ci fosse qualche attestato, invece c'è proprio una patente. Ok, l'avete visto, non so, parlando di aeromobili, dai, di elicotteri, vicino all'Inps, dove c'è Eurospin, in via Milano, dai. Subito per Eurospin stanno buttando, l'hanno buttata a terra dove c'era prima la Mercedes, stanno costruendo, hanno messo quella gru, non so se l'avete notata, insomma lì atterrano gli elicotteri, quelli del soccorso, e l'hanno illuminata tipo un albero di Natale, tutta la lunghezza del coso sarà 20 metri di gru, forse anche di più, tutta illuminata, sembra un albero di Natale, veramente bella, con tutti i bracci e tutto, illuminata al giorno. Ma dove è questo? Vicino all'Inps, dove atterrano gli elicotteri? Proprio un po' prima c'è l'Eurospin, l'hai visto? Li hanno buttati a terra tutti quei capannoni, quella dove c'era prima la Mercedes di Cubeddu, ne hanno buttato tutto a terra, è una settimana e stanno già costruendo, nel senso non stanno già facendo gli scavi, dopo 5 anni che c'erano bloccati i lavori, li aveva bloccati il comune e li hanno sbloccati, e hanno messo una gru in 2 giorni, una gru sarà 25 metri penso, tutta illuminata per tutta l'altezza e per tutta la sbracciatura, ma veramente è bello, siamo in periodo natalizio, ma tu sono passato io e te lo sei tra l'albero di Natale, già l'illuminare, invece scusate per la polizia, appigliatevi. Mi va bene, io ci passo anche fate dove. Cazzo di scena che c'è. Beh. Io sì, già l'ho visto lì dietro, c'è l'Eurospin. Beh, normale. Normale, io mi ero tenuto molto basso, se mette quel traliccio di 20 metri sopra il tetto dove ero prima, dovevo per forza mettere la lucetta rossa, ma avevo già chiesto al comando di vigili e allora sono andato un po' più in basso e andava bene così, sono rimasto a 6 metri, 8 metri. KK, Cattadino Alfa 1, comunque voi avete tutte queste patenti, tutti questi diplomi, tutte. Quella che c'ho io non ce l'avete. E qual è quella che c'hai tu? Alfa la cazzata, io. Quella che c'ho io, la c'hai anche tu. Oh, quale patente c'hai tu? No, oh, quella che c'ho io voi non ce l'avete, voi ce le avete tutte, diplomi, contro diplomi, vabbè, a prescindere dal mio lavoro. Io ho tutto quello che serviva per lavorare, ma quella che c'è io di patente, voi non ce l'avete. Ed è la patente da cuocuomane. Io allora sì, cuocuomane, come me, e ce l'ho anch'io quella lì. Ce l'hai quella tu? Hai visto? Allora ce l'abbiamo io e tu. Anche Luca ce l'ha la patente da cuocuomane, solo che io ho un attestato in più di voi, Perivella. E vabbè, la moto me l'ho venduta tanto tempo fa. Dice un bando spacciatore tutti e due. Che siete dei cuocomani che avete ciabato lo spacciatore? Sì, sì, no, io e Natalino già ci trovavamo sempre, anche con la buona anima di Salvatore, capito? Due spiccioni arrotolati. E però non c'avete quella di pirata che ho io. Che sembra si può carabina per me. È una brutta però, è la, forse la più brutta di tutti. Anche tu sei appartiene alla famiglia di cuocomani. Peggio. E dici, che patente c'è? Forse 25 anni fa facevo i sequestri giudiziari, cosa brutta, quindi ho la qualifica di ufficiale giudiziario che mi è stata rilasciata alla Procura della Repubblica, ma l'ho fatto 2 anni quando allora c'era la BPS riscossioni e poi avevo mollato tutto lì, mi avevano assunto al Banco di Sardegna e quindi me ne ero andato via, però era una brutta storia, però quel cavolo di qualifica brutta mi è rimasta. Mamma mia, via. Ecco la brutta. Quella è brutta, tu immaginati, faccio una, apro una parentesi e la chiudo, io sono stato a Monte Agnese come appunto dipendente della mia azienda, no, il portabilizzatore di Monte Agnese era Alghero, e c'era un periodo che stavo sostituendo un collega che purtroppo aveva avuto un brutto incidente, quindi è stato 6 mesi a casa, e 6 mesi mi hanno trasferito alle utenze, mi mandavano nella zona di Arenoso, non so se la conosci, Santa Maria La Palma, tutte quelle, perché c'era un mare di gente che praticamente non pagava acqua, lacci abusivi, eccetera. Ma io ero diventato più amico di quelli che di mio fratello, capito? Perché andavo, mi presentavo, tutto, eravamo sempre in due però, due colleghi, e se volevi c'è questa morosità, questa, come facciamo? Mi sono venuto per sapere il contattore qua, figlio Rugaro, abbai da un attivivo, abbai da noi, poi parlavano un po' in sardo, un po', perché in quella zona lì, non so cazzo, boh, mezzo algarese, mezzo, fortunatamente capivo tutto, buona cosa dove vivo, qui, mi facevano pena. Facevano pena, cioè mangiavano nelle sedie di plastica e quei tavolini di plastica che noi usiamo per andare al mare e a dormire dormivano le sdraie. Quanto mare doveva andare in chili a staccare l'acqua? Va bene, non si preoccupi, sconosciuto, nazionalista, quando rientrava in ufficio, diceva il dirigente, Claudio, ma c'è Matti, chiamava per cognome, ma è mai possibile che lei non ne ha trovato neanche uno? Se non sono senti, non sono sconosciuti, se non li trovo, così mi devo prendere l'elicottero e io non so cosa dirle. Ma lo facevo apposta talmente che mi hanno rimandato ai potabilizzatori. Ben fatto, quella è umanità, quando ci vuole ci vuole. Ti giuro che lei, ma guarda, una cosa che veramente mi viene la pelle rocca adesso, come te la fai andare a chiedere soldi a questa gente che vivevano nelle baracche, non so se conoscete la zona di Santa Maria La Palma, proprio il Bronx che c'è verso il lago di Barac. È una cosa allucinante, qui sono tutti abusivi, tutti abusivi, sono tutti allacciati non solo per cazzo prendono l'acqua, tutti abusivi, tutto abusivo. E io devo andare lì a Fagosa. Quando poi è capitato che qualche volta andavo al mare, perché io andavo anche lì vicino al lago di Barat, e passavo lì davanti, mi riconoscevano, ehi, non mi mollavano più, no, senti, atti a buffare, di tutto mi davano, mamma mia, raga, ma per dire, l'umanità, le cose giuste, a volte ti premiano, capito, vai già. Sono lavori un po' rognosi, dai, anche perché ti fanno pena certe persone e cose. Io avevo un collega che poi era entrato al Banco di Sardegna e faceva quel lavoro, lo stesso andava a fare i sequestri, roba del genere, era ufficiale del Banco di Sardegna. E fatto sta che poi ha mollato, il padre c'era il peschereccio e praticamente si hanno aperto una pescheria e con il pesce che prendevano, un po' lo vendevano, un po' se lo portavano alla pescheria e faceva i soldi così. Però non gli è mai piaciuto. Ah, vero? Mia Franco, Buonasera, Break, comunque l'hanno fatto il break. Non so chi c'è qua. Ciao Claudio, mi sa che ho sentito Gianni, Natalino e Gianfranco, e ciao anche a Roberta Gurune. Roberto si deve essere assentato perché l'hanno chiamato al telefono. Carlo, riprendi, dai. Brutti lavori quelli. Buonasera Franco. Ciao Carlo, buonasera. Mi ascoltate? Sì. Ero convinto non mi ascolta il vatte. Sì. Carlo, allora conosci Gianfranco Usai tu? Franco Usai mi dice qualcosa, ma adesso ho un po' di buio, però come nome l'ho già sentito. E al Banco di Sardegna l'hai sentito. Quello è il mio istruttore di tiro dinamico operativo. Ecco, io ho lavorato per 10 anni, tondi tondi, al Banco di Sardegna, in via Umana, dove c'era il centro elaborazione dati. Non facevo l'orario giornaliero perché facevo i turni, capito? Una settimana di mattina, una di sera, una di notte. Questo l'ho fatto per 10 anni. Poi gli ultimi 2 anni che sono stato al Banco di Sardegna ho lavorato all'ufficio bonifici. Lì è sempre a Carbonazzi, dove c'è l'agenzia dietro, su negli uffici, per cui questo Usai mi ricordo che probabilmente ma sarà in pensione adesso. Sì signore, penso che sia in pensione già. Cosa ti volevo? Allora conosci mio cugino sicuramente, che lavorava al centro meccanografico, l'ingegner Pretti. Mio parente. Come? Tuo parente Carletto? Già lo conosco. Ingegner Pretti non è andato in pensione? Questo non lo so, però so che è una persona in gamba, ma non perché è un mio lontano parente, perché l'ho conosciuto personalmente per altri motivi, è persona molto in gamba. E quello è mio cugino. Sì, noi ho avuto a che fare una volta, ma ero a lavoro, per lavoro, non proprio con lui. Proprio con lui, c'era una pratica un po' particolare, quindi siccome, vabbè, era un capannone, se mi ricordo, era tutto il leasing, insomma una cosa particolare, c'era lui di mezzo. Ho capito, sì, può essere pure che sia andato in pensione, poi i Pretti di Sassari, mi sa che solo una famiglia che sappia io c'era. Sì, i Fabbri erano. Già siamo quella famiglia, erano pariti con mia nonna, che era sassarese, Doc Melis. E Melis sono io. Mia nonna faceva Melis, abitava in via, in vicolo Bertolinis. Ebbene, non lo so il nome, mi dovresti dire. È parente mio, sì, allora, là. Probabile. Se faccio Melis, te lo sto dicendo. Mia nonna si chiamava Assunta, poi è andata a finire in via Baldetta. Ah, via Assunta, Delia, boh, non dico altro.